e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, buon giovedì. Allora, intanto negli Stati Uniti è il Thanksgiving Day, per cui ringraziamo anche noi per la giornata del ringraziamento. Tutti pronti là a gustarsi questo succulento tacchino. Tacchinone. Esatto, e noi invece che cosa facciamo? Andiamo a scuola, anzi scuola di risparmio. Oggi è giovedì, lo sapete. Proviamo ad imparare a gestire bene il nostro risparmio, i nostri soldi. Proviamo a progettare anche dal punto di vista di denari appunto il nostro futuro. Ogni settimana vi proponiamo il confronto con un esperto del settore, vi diamo i suoi consigli con stimoli sempre nuovi che ci arrivano dalle notizie di attualità e dalle vostre domande. Oggi parleremo di polizze, strumenti assicurativi a contenuto finanziario, sempre più diffusi fra i risparmiatori. Proveremo a capire che cosa sono. E anch'io ho una proposta da farvi alla vigilia della giornata mondiale contro la violenza alle donne. Io vi propongo di lavorare insieme a noi e ai nostri esperti sulle emozioni. La materia di cui oggi ci occuperemo si chiama educazione alle differenze. Questa crediamo una delle strade che possono metterci nella condizione di fare prevenzione. Tutti noi, ciascuno di noi deve fare la sua parte, perché la violenza sulle donne non è un fatto privato, non riguarda solo le vittime, riguarda tutta la società intera, è una tragedia che parla a tutti noi. 800 24 00 24 per parlarne insieme a noi. La violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani più vergognosa. Essa non conosce confini né geografia, cultura o ricchezza. Fintanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l'uguaglianza, lo sviluppo e la pace. Kofi Annan. Donne e bambine continuano a subire discriminazioni e violenze inaccettabili, spesso per mano del compagno o di parenti. In casa e a scuola, al lavoro e nella comunità, essere donna vuol dire troppo spesso essere vulnerabile. Ban Ki-moon. Sono passati 17 anni da quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e ha invitato quindi i governi, le organizzazioni internazionali, le ONG a organizzare delle attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica. Gli anni passano. Il problema però rimane e cresce, perché questo problema è alimentato da pregiudizi, tabù, dall'ignoranza, diciamolo anche dall'indifferenza, dal silenzio, dal non detto e dalla paura. E questo vorrei dire da una cultura, o meglio da un modo di pensare, di agire, da una diseducazione profonda e diffusa che genera violenza. Una violenza che è come un mostro a tante teste, tante forme, che prendono nomi diversi, femminicidio, ma anche bullismo, omofobia. Insomma, per dire basta e mettere fine a questa strage occorre, e noi lo crediamo, investire in prevenzione. Se la consideriamo un po' come una malattia, si può in qualche modo prevenire dopo che abbiamo fatto una sorta di diagnosi di queste cause. Quindi vogliamo fare prevenzione come? Investendo in educazione, e io credo sia necessario farlo, ma non sono solo io a crederlo, iniziando dai bambini, perché sono loro il nostro migliore investimento, il nostro futuro. E quindi abbiamo chiesto aiuto ad un grande amico di Cuore Denari, Alberto Pellai, che è in linea con noi, medico, ricercatore all'Università di Milano, psicoterapeuta, autore di numerosi libri. Ciao Alberto. Ciao, buongiorno a tutti. Alberto, anche il Ministero della Pubblica Istruzione ha definito tra le priorità educative della buona scuola l'educazione di genere, che è proprio considerata proprio uno strumento fondamentale per abbattere le diseguaglianze tra i generi e quindi per fare prevenzione, per promuovere le pari opportunità e quindi implicitamente per combattere un fenomeno così terribile come la violenza di genere. Che cosa si intende, Alberto? Ma l'educazione di genere è tutto quello che noi facciamo come adulti e che comunica a chi sta crescendo che cosa noi pensiamo, che attitudini abbiamo rispetto al maschile e al femminile. Spesso è proprio un'educazione finalizzata a combattere gli stereotipi di genere che rispetto al femminile hanno spesso come immagine, come obiettivo quello di considerare le ragazze, le bambine, le donne come predestinate, no? A tutta una serie di comportamenti e di ruoli dove non hanno pari opportunità, dove possono essere trattate e considerate più come un corpo che come una persona, più come un oggetto che come un soggetto, e tutto questo poi spesso si traduce nel modello adulto di relazione affettiva tra uomo e donna come una situazione dove non c'è pari potere o dove l'uomo stesso pensa di poter decidere, definire, determinare il ruolo, la presenza, le scelte della donna all'interno della coppia, e quando questo non succede, cioè quando la donna dice no, automaticamente scoppia un conflitto di potere che a volte l'uomo poi risolve con la violenza. 800 24 00 24, parliamone insieme, scriveteci, lo state già facendo al 349 238 6666. Ci scrive un ascoltatore: non facciamo una questione di genere, la violenza deve essere condannata in quanto tale in tutte le sue forme. Infatti abbiamo parlato di una violenza come una tragedia, un mostro con tante teste, con tante forme, con tanti nomi. Alberto. Sì, dobbiamo però invece dire che parlare di violenza di genere è proprio importante. Se noi non vediamo che, ad esempio, nel tema del femminile, nell'essere una bambina, una ragazza, una donna, c'è un fattore di vulnerabilità che spesso espone poi tutto il percorso di crescita e di vita a un rischio, un potenziale danno proprio in quanto bambina e ragazza, noi togliamo proprio dal concetto di violenza un elemento importante. Proviamo a pensare, siccome questa è proprio una giornata mondiale, al tema delle spose bambine. Ci sono alcune nazioni nel mondo dove le bambine possono essere proprio date in sposa a uomini che hanno 15-20 anni più di loro, loro magari hanno 9-10-11 anni, ed è chiaro che in una prospettiva clinica questo per esempio è tutelare, addirittura legalizzare un abuso sessuale, uno stupro su un minore, e quelle bambine non hanno potere d'azione. Spesso nella logica anche della famiglia a cui appartengono, questo fa parte un po' del modo di poter sopravvivere, ma è togliere a quella bambina in quanto bambina tutti i suoi diritti di essere umano. Quindi dobbiamo parlare di violenza di genere, dobbiamo parlare di cultura di genere. E di pari opportunità. Tra l'altro, puoi farci degli esempi, Alberto, di come implicitamente il concetto di pari opportunità venga negato anche all'interno del percorso di crescita dei nostri figli? Ma per esempio, proprio proviamo a una delle cose che è cambiata di più negli ultimi 15-20 anni è l'opportunità per le ragazze di avere accesso a tutte le carriere possibili e immaginabili. Questo non era così 20 o 30 anni fa, si pensi solo alla carriera del medico, che fino a 20 o 30 anni fa era una carriera ad altissima prevalenza maschile. In questo momento invece la gran parte delle iscritte alle facoltà di medicina sono di sesso femminile. Questo cambiamento è avvenuto nella cultura e nella società ed è proprio un risultato del fatto che si è abbattuto lo stereotipo di genere, si è aumentata la dimensione delle pari opportunità per maschi e femmine. Questo però non vale, no, in tutti i campi. Per esempio, le funzioni apicali e dirigenziali nei luoghi di lavoro sono fortemente appannaggio del sesso maschile e è minima la presenza o la percentuale di donne che hanno in qualche modo infranto quello che si chiama il tetto di cristallo. Così nella politica, e quindi si è parlato di quote rose in generale, noi dovremmo dire che si provi anche a pensare quando cosa succede alle ragazze quando entrano alle scuole superiori. Uno dei dati, proprio in una prospettiva anche di salute, il doppio delle ragazze rispetto ai maschi abbandona le attività sportive. Per quale motivo? Perché lo sport è codificato nel modo di essere raccontato all'interno dei media e della società come una dimensione molto più maschile che femminile. Invece lo sport fa bene a tutti. Alberto, quindi questi abbiamo sono micro delle micro immagini, delle micro fotografie, esatto, che tu ci offri per provare a riflettere su questo tema. Tra l'altro, nel tuo libro Bulli e Pupe, che hai pubblicato quest'anno per Feltrinelli, tu usi proprio queste due parole, bulli e pupe, per sintetizzare il modo in cui gli stereotipi di genere costruiscono proprio in modo, direi, distorto l'idea di maschile e femminile presente nella società. Bulli e pupe. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e ritorniamo subito dopo insieme ai vostri commenti, i vostri dubbi, le vostre storie. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Cuore e denari. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi. Puntata dedicata alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, fissata il 25 novembre da 17 anni dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È un argomento duro, è un argomento difficile che noi vogliamo affrontare insieme a voi, perché di violenza se ne legge tutti i giorni nella pagina di cronaca, ci si scandalizza, poi si dimentica. E tutto torna come prima e la violenza torna a casa tra le mura domestiche. E quindi crediamo che oggi, soprattutto oggi, ma anche nel resto dell'anno, ciascuno di noi si senta coinvolto, perché non è un problema che riguarda chi porta sulla pelle o nel cuore i segni di una violenza o di chi la sta vivendo in prima persona, ma di tutti noi che abbiamo il dovere di lavorare per una società in cui tutte le persone, tutti gli individui in quanto tali siano rispettati, ed è questo che vogliamo e vogliamo insegnare anche ai nostri figli. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai, con cui stiamo un po' ragionando sull'educazione come strumento preventivo. Alberto. Sì, ci eravamo proprio fermati anche sul concetto di bulli e pupe. Se noi riflettiamo come genitori, io sto crescendo due maschi e due femmine, mi rendo proprio conto che in questo momento nel loro percorso di crescita, magari nonostante anche tutti i modelli, i valori, gli ideali che abbiamo noi nel nostro progetto educativo, effettivamente sulle ragazze arriva una pressione molto forte ad apparire più come pupe, no? A immaginare che il loro successo e il loro valore dipenda anche fortemente da come appaiono, da una pressione forte che gli psicologi americani hanno raccontato in un report su quanto è forte la pressione per bambine e ragazze ad apparire, per esempio, sexy disponibili per conquistare popolarità, mentre i maschi hanno il mito della potenza che spesso è raccontata come forza muscolare. Quindi a volte come genitori ci troviamo con ragazzi di 15-16 anni che per esempio chiedono di poter andare in palestra a fare bodybuilding proprio con l'obiettivo di avere un corpo che diventi potente, mentre noi dovremmo anche lavorare molto sulla loro competenza emotiva e relazionale. Assolutamente. Perché poi è questo che serve in una relazione. E quindi invitiamo anche i genitori all'ascolto a raccontarci che cosa stanno raccontando, come stanno affrontando questo tema, se lo affrontano con i loro figli. Intanto salutiamo la dottoressa Luisa Anna Porcu, psicologa operatrice del centro antiviolenza Onda Rosa di Nuoro e nonché consigliera nazionale dell'associazione Dire. Buongiorno dottoressa, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie. Intanto, dottoressa, le faccio sentire due interventi, Lucia da Udine e Giovanni da Bergamo, e poi li commentiamo insieme. Buongiorno Lucia, benvenuta. Buongiorno a tutti. Io intervenivo in quanto la trasmissione mi piace molto e spesso mi trovo d'accordo. Tuttavia, stamattina mentre ascoltavo la vostra trasmissione, per quanto sono immensamente d'accordo sul discorso della violenza in ogni caso, che sia verso le donne, verso i bambini, terribile il discorso delle bambine in particolare, che si sta anche sentendo adesso, ultimamente anche per il discorso della Turchia. Tuttavia, il discorso dell'educazione di genere non mi trovo assolutamente d'accordo, perché secondo me si nasconde dietro l'educazione di genere non tanto una corretta educazione per il rispetto dell'uomo, della donna, del bambino in quanto tale, come persona, ma più che altro un annullamento del genere, delle differenze che invece sono una ricchezza del genere umano, la differenza uomo, donna. E questo e non lei teme che ci sia questa lettura che può annullare. Sicuramente, anche quello che diceva il professore, lo stereotipo della donna. Io sono madre, sono una professionista, sono moglie, ma non mi sento stereotipata, per quanto credo che il valore di madre, di donna, in quanto ruolo, sia molto importante. Assolutamente. Sentiamo Alberto. Alberto Pellai, il professor Alberto Pellai può rispondere? Ma credo che quello che dice la nostra ascoltatrice in questo momento è un dibattito molto vivo, per cui c'è tanta ansia che l'educazione di genere venga diventi quello che viene un po' detto l'educazione al gender. In realtà, mentre uno dei temi forti dell'educazione al gender è che questa educazione in qualche modo porti i ragazzi a confondere le loro identità di genere e quindi mandi messaggi sul fatto che uno un giorno magari si sveglia maschio e vuole diventare femmina e viceversa. È molto diverso, l'educazione di genere lavora proprio sul concetto di ruolo di genere. Ciascuno di noi quando nasce maschio o femmina si trova implicitamente dentro ad un copione che è fortemente impattato da quello che si chiama ruolo sociale intorno al proprio genere. Per esempio, in alcune nazioni del mondo, se nasci femmina non potrai mai prendere la patente e quando ti vuoi spostare in auto devi sempre chiedere a un uomo che ti porti da un punto all'altro. Allora non è che le donne non sono capaci di prendere la patente, non sono capaci di guidare, è però che in quella nazione il ruolo di genere attribuisce alle donne l'impossibilità di poter guidare un'automobile. Questo è un caso eclatante, no? Ma si pensi agli uomini, il mio nonno quando è diventato papà era lavorare, il mio papà quando è diventato papà era fuori dalla sala parto, io quando sono diventato papà ero nella sala parto. Ecco, il ruolo di genere ha in qualche modo fatto fare la stessa cosa, diventare papà, in modi molto diversi, e credo che forse l'esperienza migliore l'ho vissuta io grazie al cambiamento di uno stereotipo che il mio nonno si era trovato addosso, non aveva scelto. Allora, adesso noi dobbiamo tra poco andare al nostro GR, ma intanto volevo, dottoressa, tornare sulla violenza sulle donne. I dati ci dicono che una donna su tre è vittima di violenze e sappiamo che c'è un drammatico sommerso. Donne che non parlano, che si tengono questo dramma dentro perché forse è troppo grande per riuscire a farlo uscire. E lei, oltre a psicologa e operatrice del centro antiviolenza, è anche consigliera nazionale dell'associazione Dire, che è una delle associazioni che organizzerà la manifestazione del 26 a Roma, di cui parleremo anche dopo il nostro GR. Quindi restate con noi, sentiremo anche Giovanni da Bergamo. A tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Cuore e denari. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò. E senza dire parole nel mio cuore. Dall'inizio dell'anno in Italia sono 123 le donne uccise per motivi sessuali. Domani si celebra la giornata mondiale contro la violenza, sono previste tante iniziative e sabato Roma ospiterà una manifestazione nazionale che ci auguriamo e siamo sicure vedrà una grande partecipazione. Noi riflettiamo su questo tema insieme ai due esperti di oggi, la dottoressa Luisa Anna Porco e il professor Alberto Pellai. Dottoressa, parliamo del sommerso. Ci sono tante donne che non parlano, non chiedono aiuto, non escono allo scoperto e questo indubbiamente aumenta la loro fragilità e le espone a un rischio ancora maggiore. Sì, certo, la violenza ha tantissime conseguenze sulla salute, sia da un punto di vista psicologico che sul piano fisico. Queste vanno dall'insonnia, alla depressione, all'ulcera, ai tentativi di suicidio. Esiste un sommerso importante in Italia di cui non si conosce assolutamente l'entità. Dall'ultima ricerca ISTAT si dice che una donna su tre in Italia subisca violenza. Ma dottoressa, che cosa può giustificare e spiegare questo silenzio? Si teme ad esempio per i figli, le donne che hanno i figli magari temono che denunciando possano in qualche modo essere i figli a pagare poi le conseguenze, oppure magari il disagio di raccontare questo fallimento nella vita privata. Lei che le donne le accoglie e le supporta, che cosa le raccontano? Che cosa le impedisce di chiedere aiuto? Forse non si sentono, molti ascoltatori ci mandano dei messaggi dicendo beh, però anche una donna nel momento in cui denunciasse mai la violenza non avrebbe nessuna garanzia di essere protetta. Sì, allora, potenzialmente tutte noi siamo a rischio di subire violenza. La violenza è trasversale. Attraversa tutte le classi sociali, culturali o religiose. Ha origine nello squilibrio di potere tra i sessi che esiste nella società e questo si traduce quindi anche nelle relazioni di coppia. È sicuramente, indubbiamente, la più grande violazione dei diritti umani che però la società tutta rende possibile. Il silenzio delle donne è dovuto proprio a questo, a una società che da un lato condanna la violenza, ma contemporaneamente la rende possibile, spesso colpevolizzando la donna stessa. Le donne sanno benissimo che quello che vivono è violenza, però purtroppo non trovano nei servizi, nell'opinione pubblica, nella famiglia, nell'amicizia, la chiave per dire basta, perché certo. Molto spesso loro stesse vengono colpevolizzate. Questo è il problema del silenzio. Questo è il problema. Giovanni da Bergamo, buongiorno, l'ho fatta attendere, sì, mi scusi. Prego, non si preoccupi. Allora, io adesso vorrei dire due cose, sì. Non parlo sotto l'aspetto... Cioè, secondo me le donne sono splendide, voglio essere un attimino un po', come si dice... Me lo dica lei. Allora, voglio essere un attimino un po' polemico, sì, su tutto quello che si viene detto. Sì. Allora, le donne sono per me, per quello che vivo nel mio quotidiano, sono splendide. Ma dentro in un contesto di donna, di diversità. Io non parlo da intellettuale, cioè del settore come la psicologa o l'altro suo ospite, ma da persona che vive il quotidiano con donne che lavorano con me, che vivono con me, con mia moglie e con mie figlie. Sì. Gli stereotipi che magari gli intellettuali del settore continuano a parlare, in realtà bisogna vedere quello che la donna desidera nella sua vita. Perché noi parliamo, o almeno qualcuno parla, sempre per le donne, ma in realtà noi le donne le vediamo a fare shopping, al supermercato, a fare... Mi scusi, io giro, sì, per lavoro e durante il giorno ci sono solo donne. Sì. Mi scusi, mi faccia finire poi l'ultimo concetto. Ci sono solo donne, ma meglio così, aiutano il business, aiutano... Ok, non voglio sembrare banale. No, ma poi, Giovanni, non riesco a capire poi in sostanza che... Adesso chiudo. No, vada. Quindi, poi abbiamo una situazione giuridica sempre verso le donne. Cioè la società tende, no? Secondo me è il contrario di quello che dice la psicologa, vediamo nella politica, le quote rosa, vediamo in tutte le situazioni, la società tende a difendere in modo cieco, sembrando che le donne non siano in difficoltà in questa società. Sì, invece lei dice che in realtà non è poi così vero. Non è poi così, così vero, perché dice Giovanni, le donne... Si gestisce... sì. Allora, poi io parlo sotto un profilo di persona normale, non vado a giudicare le situazioni violente, cioè che sentiamo purtroppo sui telegiornali. Quindi lei dice, insomma, bisogna ridimensionare un po' il problema. Allora, dottoressa Porcu. Allora, io penso che la società sia costruita. Anche lei però, come Giovanni, incontra le donne, inserite in un contesto in cui vede anche le donne che vanno a fare la spesa, anche la moglie di Alberto va a fare la spesa. Cioè, ritorniamo alla normalità, perché il nostro ascoltatore diceva: io non faccio un ragionamento come i vostri esperti intellettuali, io non voglio togliervi nulla, ma voglio dire, stiamo ragionando tutti insieme, stiamo sottolineando questo problema serio. Adesso parliamo di violenza alle donne, abbiamo parlato in altre occasioni di bullismo, di altre forme della violenza. Domani la giornata sulla mondiale sulla violenza alle donne, parliamo di questo, poi ci saranno altre occasioni, quindi ci focalizziamo su questo aspetto. Abbiamo detto che c'è un sommerso, abbiamo dato i numeri, donne uccise, ci sono dei bambini, delle famiglie che sono sconquassate da queste situazioni, c'è ancora l'incapacità di tante donne di denunciare il disagio che stanno vivendo. Il nostro ascoltatore però ci faceva, no, ci poneva questo spunto di riflessione, di vedere l'altro. Allora, la società è costruita dagli uomini per gli uomini. Alle donne viene dato un ruolo. Quando le donne non rispettano questo ruolo, vengono punite. Questa è la violenza. È proprio lo squilibrio di potere tra i sessi che esiste nella società. Sono gli uomini che scelgono un ruolo per noi donne. 800 24 00 24, c'è ancora tempo magari per raccogliere una testimonianza. Alberto, un commento anche da parte tua, perché poi noi dobbiamo andare a sederci sulla... tra i banchi della scuola di risparmio, ma non vogliamo risparmiare i nostri ascoltatori spunti di riflessione su questo tema. La conversazione di oggi non è su un pensiero intellettuale, no? Su una sorta di sapere. Ci sono dei dati, il femminicidio esiste, le donne vengono uccise all'interno delle relazioni affettive, non esiste lo stesso per gli uomini. Tutti gli indicatori sociali ed economici parlano di un gender gap. Vuol dire che questo è un dato oggettivo, e la domanda è il risultato di scelte personali delle persone o il risultato del sistema in cui vivono le persone, che costruisce la mancanza di pari opportunità? Se la risposta è il sistema costruisce la mancanza di pari opportunità, se la risposta è effettivamente gli uomini non vengono uccisi dalle donne, abbiamo un problema di genere. Quindi non è un pensiero intellettuale, è un dato solido, un'evidenza, basato su eventi. Dottoressa, che cosa, quali aiuti concreti, vogliamo essere anche concreti e dare un messaggio alle donne che ci stanno ascoltando, quali sono gli aiuti concreti che vengono dati alle donne che si rivolgono ad un centro? Sì, allora, i centri antiviolenza sono degli spazi, dei luoghi di libertà. All'interno dei centri sono aperti a tutti. Sono aperti, gratuiti a tutti. Sono i centri DIRE, sono gestiti da associazioni di donne che sostengono altre donne. All'interno del centro si fa un lavoro di non tanto di cambiamento del sé di una donna, ma proprio di realizzazione di sé. Si basa un supporto che si fonda proprio sulla realizzazione dei desideri della donna, perché la violenza si basa sull'annullamento dei desideri, no? Certo. Dà delle indicazioni precise sul ruolo, tu devi fare questo. All'interno di un centro la donna ribalta proprio la sua vita a partire da sé, dai suoi desideri, dalle sue aspettative, da ciò che nella vita vuole fare, e fa un percorso con le operatrici del centro per realizzare tutti i suoi desideri di libertà. Alberto, chiudiamo anche con un pensiero. Abbiamo iniziato con i bambini e chiudiamo ancora con un pensiero ai bambini. Un bambino che assiste, vive in un clima violento, può a sua volta diventare violento. Tu parli spesso di tatuaggi emotivi, questi sono dei tatuaggi incancellabili? Non necessariamente diventa violento. Certamente la violenza assistita è una esperienza che disorganizza l'equilibrio emotivo del bambino, è uno degli eventi più gravi proprio rispetto alla sua vita psichica, gli fa molto male, potrebbe farlo diventare un adulto violento, potrebbe invece farlo diventare un adulto non violento, ma con dentro il tema dell'impotenza, oppure il tema della proprio il sentire, per esempio, il ribaltamento di ruolo e sentire che è lui che deve salvare il genitore che viene picchiato. Quindi gli viene rubato il suo ruolo di bambino e si trova improvvisamente su una scena dove quella non è il suo posto, ecco. Allora, ringraziamo Alberto Pellai, la dottoressa Luisa Anna Porcu, torneremo sicuramente sul tema, grazie, e noi passiamo all'altro argomento di oggi, ma vogliamo lasciarci con una frase di Shakespeare. Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo, in piedi, signori, davanti ad una donna. William Shakespeare. Ed eccoci ritrovati a Cuore Denari. È molto difficile adesso passare ad un tema finanziario, il tema che stavamo affrontando è molto delicato, denso e naturalmente anche di aspetti che meritavano di essere ulteriormente approfonditi, ma abbiamo tutto il tempo per poterlo fare successivamente. Peraltro il tema che affronteremo adesso e la modalità che abbiamo scelto per introdurlo in qualche maniera richiama nei suoi concetti anche aspetti affrontati appunto nella parte precedente, perché fra un po' andrò a parlare, Nicoletta, di vulnerabilità delle famiglie italiane. Lo farò dal punto di vista finanziario, però è un concetto che si sposa molto bene anche sui temi che abbiamo affrontato prima. Allora, andiamo a Cuore e Denari e il tema appunto di denari. Oggi pomeriggio il forum Ania Consumatori presenta i risultati dell'osservatorio appunto sulla vulnerabilità economica delle famiglie italiane, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano. Voglio segnalare, per chi non lo conoscesse, che il forum Ania Consumatori è una fondazione promossa dall'ANIA, l'Associazione Nazionale fra le imprese di assicurazione, appunto, con l'obiettivo di rendere più costruttivo, se possibile, il dialogo fra le assicurazioni e i consumatori, realizzando tutta una serie di studi, approfondimenti e iniziative, fra cui questa. L'indagine che appunto viene presentata oggi è l'edizione 2016, si concentra sulla vulnerabilità delle famiglie rispetto agli shock esterni, come la perdita del lavoro, la malattia, gli incidenti, e viene creato proprio un indice di vulnerabilità che sintetizza tutti questi fattori. Nell'edizione di quest'anno c'è anche un focus molto bello sulle donne capofamiglia, che è molto interessante. Allora, ieri abbiamo raccolto qualche anticipazione sull'indagine che appunto viene presentata oggi pomeriggio a Roma da Giacomo Carbonari, segretario generale del Forum. Sentiamolo insieme. Il risultato di questa indagine dell'edizione 2016 da un lato è positivo, perché dimostra che c'è un miglioramento negli indici di vulnerabilità delle famiglie italiane, e questo ovviamente è un aspetto che ci rallegra. Purtroppo rimangono alcuni indicatori di stress che sono abbastanza ancora rilevanti. Sono tre soprattutto quelli che noi abbiamo individuato. Il primo è il fatto che c'è un 61% di famiglie che fa ancora fatica, così almeno dichiara, ad arrivare a fine mese. Il secondo indicatore è ovviamente meno ampio per quanto riguarda la numerosità, è che c'è un 16% di famiglie che invece dichiara di non essere in grado di fare fronte ad una spesa imprevista a partire da 700 euro. E poi dopo c'è un terzo indicatore che considero forse un po' il più preoccupante di tutti, perché è in aumento rispetto agli anni precedenti, e cioè c'è un 37% di famiglie che rinuncia alle visite mediche. Cosa fa la famiglia italiana per difendersi da tutto questo? Le famiglie da un lato si adattano e quindi riposizionano il proprio stile di vita, dall'altro lato invece che adattarsi reagiscono anche. Come? Attraverso da un lato l'ottimizzazione dei costi oppure l'incremento delle entrate. E qui mi viene in mente l'affitto della seconda casa su internet. Terzo aspetto è quello di comprare e di utilizzare strumenti finanziari che le permettano di proteggersi